Sura della prova evidente, capitolo 98 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 8 ayat ed è scesa dopo la Sura 65, At-Talaq. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e clementissimo. Quelli della gente del libro che hanno tralignato e gli associatori ad Allah di falsi dei, a tal punto erano lontani dalla verità che non avrebbero mai più avuto la possibilità di uscire dalle loro aberrazioni religiose se non fosse giunta loro la prova evidente. Un apostolo suscitato da Allah, il quale recita loro pagine pure, nelle quali ci sono testi scritti di sicura provenienza divina. Coloro che avevano ricevuto il libro non si frantumarono in gruppi se non dopo che fu giunta loro la prova evidente della provenienza divina del Corano e della missione profetica di Muhammad, e non fu loro ordinato nient'altro che di adorare Allah, riservando unicamente a Lui il culto da hunafa, di eseguire l'adorazione quotidiana e di pagare a zakat. Questa è la religione autentica. In verità, gli appartenenti alla gente del libro che rifiutano di credere e gli associatori di falsi dei ad Allah finiranno nel fuoco di Jahannam, in cui rimarranno in eterno. Essi sono la feccia dell'umanità. In verità, coloro che credono e praticano le opere buone sono il fior dell'umanità. La loro ricompensa presso il loro Signore è costituita dai giardini di Eden, sotto cui scorrono i fiumi, giardini in cui rimarranno in eterno per sempre. Allah si compiace di loro ed essi si compiacciono di Lui. Questo per chi teme il suo Signore.